Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Adesso che facciamo? Buongiorno da Nicoletta Carbone. Che cosa si fa quando il pupo si sveglia? Lo prendiamo in braccio? Lo lasciamo piangere? Lo portiamo nel lettone? Lo lasciamo nel lettino e gli stringiamo la manina? Se queste domande ve le state facendo anche voi o ve le siete già fatte, avete, fortunati voi, trovato una risposta, chiamateci 800 24 00 24. Oggi parliamo di sonno. Come ti addormento il pupo e come convinco il ragazzino che è ora di andare a dormire. Sì, perché parleremo di lattantini, di neonati, ma anche di bambini più grandicelli. Argomento molto caldo, sempre di attualità, anche nei forum delle mamme. Noi siamo andati a sbirciarne qualcuno. Con la mia bambina il problema nanna è ed è stato un problema. In teoria lei dorme a in camera sua, nel suo lettino, solo che si sveglia tipo 10.000 volte ogni notte, poi ci si mette mezz'ora a riaddormentarla, si sveglia poi di nuovo verso le 4 o le 5, viene nel lettone, poi se va bene si riaddormenta subito, se no ci si sta anche un'ora. Insomma, vabbè, ci sono bambini che dormono, bambini che fanno più fatica, pazienza. L'unica mia consolazione è che un giorno arriverà il giorno che mi dirà: ciao mamma, vado nel mio letto. Ci voleva Little Devil, che in questi giorni ha il problema dei denti, dorme male e dove capita. Tra un po' lo trovo pure appeso alle tende, russa come un camionista. E poi se provo a farlo dormire con noi, prima non riesce ad addormentarsi, poi morde la faccia in stile Hannibal Lecter. Aiuto, non so cosa fare. Ho bisogno di un consiglio, io sono esausta, Daniele ha sempre dormito tutta la notte in camera sua, però da circa un mese continua a svegliarsi tutte le notti e non so proprio più a che santo votarmi. Ha sempre dormito tutta la notte e ora puntualmente si sveglia chiamandomi a più non posso. Ho provato ad aggiungere coperte, magari sentiva freddo, ho provato con i peluche, ho provato a non considerarlo sperando che si riaddormentasse, ma niente ha funzionato. Forse geloso della sua sorella, anche se non me lo dimostra, ma ho veramente bisogno di aiuto. Avete dei consigli? Tanti consigli oggi, 800 24 00 24, potete darceli anche voi intervenendo in trasmissione o scrivendoci un messaggio 349 238 6666. Ma noi le mamme blogger le abbiamo qui in carne e ossa, sono tornate a trovarci Yolanda e Veronica, benvenute. Ciao. Grazie. A tutti in coro. Tra l'altro le vedo molto riposate, per cui Veronica. Sì, devo dire che sto affrontando un periodo relativamente sereno, ma dopo grandi sacrifici notturni. Quindi incrociamo le dita. Avete sì. Anche dei consigli da darci? Yolanda, te come stai? No, io non vedo nessun segno. Devo dire che adesso va proprio bene, a parte che i miei adesso sono diventati abbastanza grandicelli, però da piccoli ogni tanto qualche storia c'era. E se volete qualche consiglio che posso darvi, così proprio molto pratico, mi ricordo che quando si svegliavano perché perdevano magari il ciuccio, perché erano molto piccoli eccetera, allora io avevo trovato questo escamotage e buttavo nel letto tipo 20 ciucci mangiati in modo esatto ciucci che quando pioggia. Si svegliavano a pioggia, proprio cercavano con le mani così. Poi c'erano anche quelli fluorescenti per cui si vedevano di notte, no? E loro pian pianino hanno imparato, insomma, a rimetterseli da soli. E Veronica, tu come sei sopravvissuta? Io sono sopravvissuta perché il tempo guarisce tutte le ferite. No, io ho un bambino che ho una bambina bravissima che non mi ha mai dato problemi. Invece il più grande, anche fino a pochi mesi fa, perché adesso ha 4 anni e mezzo, se non è, diciamo, fino a 6 mesi, ok, perfetto, io chiudevo la porta, ciao amore, ci vediamo domani mattina e via. Dopodiché Alberto ci può insegnare, a 6 mesi si rendono conto che non sono tutt'uno con il corpo della mamma e quindi si rendono conto che di notte notte capita di svegliarsi e non sanno riaddormentarsi da soli, quindi ci svegliavo 10 volte per notte. E io ho applicato il metodo Estiville, che non so se tutti gli ascoltatori conoscono, ma è molto amato, molto odiato a seconda della riuscita del metodo stesso. Che raccontiamolo. È sostanzialmente, tu praticamente devi insegnare a tuo figlio a gestire i risvegli in modo autonomo. Questo avviene attraverso degli step, per cui il bambino piange, tu entri dopo un minuto, lo rassicuri ed esci. Il bambino piange, tu entri dopo 2 minuti, lo rassicuri ed esci, fino a raggiungere una certa autonomia in termini di minuti, che potrebbero essere 5, fino a che questo poveretto si rende conto che si deve mettere dito in bocca al ciuccio e finirla lì. Devo dire che a me è riuscito nel giro di 2 giorni. Probabilmente se fossi stata come altri genitori che ci hanno messo 1 o 2 settimane o magari mai, forse non sarei stata così entusiasta di questo metodo. Veronica ve l'ha già anticipato, qua abbiamo anche Alberto Pellai, medico, ricercatore all'università, psicoterapeuta, ha passato già le notti, un po' di notti in bianco avendo 4 figli, per cui anche lui ci può dare qualche consiglio. Alberto, ciao. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. E in linea con noi abbiamo il professor Ferini Strambi, responsabile del centro di medicina del sonno del San Raffaele Turro di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a voi. I suoi bambini dormivano? Appunto, dormivano, perché ormai hanno una certa età. Sì, no, devo dire che fortunatamente si vede che, così prendendo esempio dal papà, hanno sempre dormito molto molto bene, quindi il sonno non è stato mai per loro un problema e quindi di conseguenza non è stato un problema neanche per me, insomma. Quindi sono stato molto contento di come hanno subito affrontato il problema del sonno. Professore, però i dati dicono che un bambino su 3, tra 0 e 3 anni, tiene svegli i genitori la notte. Molti dicono sono viziati, ma più che un problema di vizi è un problema di ritmi, è così? Ma certamente, allora non dimentichiamoci che il sonno del bambino è chiaramente un sonno diverso rispetto a quello dell'adulto, non soltanto in termini di ritmicità, ma anche in termini proprio di organizzazione, di struttura del sonno. Non dimentichiamo che ad esempio il bambino, soprattutto nei primi mesi di vita, ha tanto sonno REM, che è il sonno in cui si sogna, che non a caso si chiama sonno paradosso perché è molto più vicino alla veglia che non al sonno vero e proprio. Altro aspetto molto importante, i cicli, i famosi cicli non REM e REM, che nell'adulto sono 4-5 per notte, nel bambino sono molto di più perché hanno i bambini un ciclo di breve durata, non di 90-100 minuti come succede nell'adulto, ma di 50-60 minuti. E questo spiega anche perché spesso i bambini si risvegliano frequentemente nel corso della notte, proprio perché si assiste ad un alleggerimento del sonno molte volte di più rispetto a quello che succede in un adulto. Andrei subito a sentire che cosa ci racconta una mamma, immagino, Daniela da Varese, 800 24 00 24. Daniela, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, io chiamavo per portare la mia esperienza. Io ho 3 bambini più o meno piccoli, insomma, che vanno dai 20 mesi alla più grande, che ha 7 anni, e devo dire che con tutti e 3 ho applicato quel metodo che diceva la signora di prima, che io non sapevo che avesse un nome, ma li ho sempre portati dai 6 mesi in poi, insomma, dopo che smettevo di allattare nella loro stanza, e anche se loro piangevano non mi sono mai precipitata con la preoccupazione che dovevo consolarli subito, ma anch'io attendevo fino a che il bimbo da solo si riaddormentava. E devo dire la verità che io è difficile che mi sveglio di notte, perché i bambini si svegliano, perché non si riaddormentano da soli, insomma. Con tutti e 3 ho aspettato, insomma, che... È andata bene, questo metodo ha funzionato. Noi però ci facciamo un giro per capire che cosa fanno le mamme nel mondo. In Egitto il bambino dorme nel letto dei genitori per i primi 3 anni di vita. In questo paese solo il 4% dei bambini dorme da solo. Tra i Bambara del Mali, i piccoli dormono per l'80% del tempo sul corpo della madre, o comunque sul corpo di qualcuno, e solo per il 20% in posizione sdraiata. In Marocco i bambini dormono nel letto con la mamma per almeno tutto il primo anno di vita. I piccoli esquimesi vengono portati dalle madri sulle spalle in uno zainetto di pelle per i primi 3-4 anni di vita. Passiamo in Oriente. In Corea, quasi il 90% dei bambini dorme con i genitori. La pedagogia indiana contemporanea, e non tradizionale, prescrive che i bambini dormano con i genitori fino ai 2 anni di età. In Giappone tutti i membri della famiglia dormono insieme sul futon e questo esempio dimostra che il co-sleeping non è appannaggio esclusivo di società tradizionali, ma è un modello applicabile anche altrove. Tratto da 101 modi per addormentare il tuo bambino. Voi come lo addormentate il vostro bambino? 800 24 00 24 Alberto. Però ci sono degli ascoltatori che ci scrivono: ho provato il metodo suggerito da Veronica, col primo ha funzionato, col secondo un disastro. Morale della favola, sono 6 anni che passiamo le notti in bianco perché nel frattempo sono arrivati altri figli. Quali sono gli errori secondo te che si fanno cercando di schiacciare un pisolino tra un vagito e l'altro? Guarda, in termini puramente comportamentali, questa è proprio un'area su cui le mamme vogliono affermare tutto il contrario di tutto, perché per esempio questa scheda che abbiamo appena ascoltato è che è fortemente in favore del co-sleeping, cioè dormire tutti insieme nel lettone anche fino ad età avanzate. In realtà, secondo altre modalità e approcci al sonno del bambino, rivela l'esatto opposto rispetto agli obiettivi, cioè ci sono dei genitori che hanno molto chiaro che il lettone è per loro e il lettino invece è il posto dove devono dormire i loro bambini, quindi dal quarto quinto mese fanno una sorta di allenamento ben preciso affinché questi siano i posti da utilizzare nelle rispettive stanze. Altri genitori che invece non ne sono convinti per niente. Per noi che facciamo questo mestiere, cioè quello degli psicoterapeuti o di aiuto, il supporto educativo ai genitori, i problemi ci sono quando i genitori vorrebbero che i bambini dormissero nel loro lettino, i bambini magari hanno 4, 5, 6, 7, 8 anni e apparentemente non se ne vogliono andare dal lettone. A quel punto i genitori sono in scacco perché non riescono più a riconquistarsi il loro spazio, la loro dimensione, e spesso tra l'altro tu vedi che il bambino è nel lettone, il papà è nel lettino e lì si genera quella confusione di posizioni e di ruoli che non ha a che fare solo con come si dorme, ma proprio un po' a che fare con come si costruiscono e si mantengono e si presidiano le regole in questa famiglia. Quindi dormite, la domanda da fare ai nostri ascoltatori è: dormite nel lettone con vostra moglie o dormite nel lettino al posto del vostro bambino? A voi in casa come va? Voi siete a posto? Allora, io devo dire che sono stata fortunata quando erano piccoli, nel senso che hanno sempre dormito estivillo, mica estivillo, insomma bene o male mi sono sempre arrangiata. I problemi sono proprio arrivati, come diceva il dottor Pellai, quando la bambina ha avuto la prima, ha avuto sui 5 anni, perché è arrivata la sorellina, questa mi ha sclerato si vede che era proprio un po' un capriccio, non certo. Era più, lei diceva che aveva paura eccetera, ma è stato veramente dura, cioè per 2 o 3 anni è stata durissima. Professor Ferini Strambi, lei ci ha detto che quindi ritmi di sonno tra gli adulti e i bambini sono differenti, ma quando è che un bambino inizia ad avere un sonno da adulto? E come interpreterebbe lei, come esperto di disturbi del sonno, il caso della bambina di Yolanda, quindi 5 anni già con un sonno da adulto che ritorna a chiedere di andare nel lettone, avere sonni disturbati? Ma allora, innanzitutto per quanto riguarda l'organizzazione ritmo sonno-veglia, possiamo dire che intorno ai 6 mesi il sonno del bambino comincia ad acquistare una ritmicità che sembra essere abbastanza vicina a quella dell'adulto, cioè quindi con un lungo periodo di sonno notturno e con una presenza di periodi di veglia più importanti durante la giornata. Ma per quanto invece riguarda proprio la struttura, possiamo dire che soltanto verso l'anno e mezzo, i 2 anni, comincia sempre di più a solidificarsi il sonno, fino ad arrivare verso i 5-6 anni dove c'è un'organizzazione simile a quella dell'adulto. Chiaramente cambiano un pochino ancora le percentuali di non REM e REM, però verso i 5-6 anni il sonno del bambino diventa, ecco, appunto un sonno vicino a quello dell'adulto. Per quanto riguarda la bambina, il problema è chiaro che, allora, non dobbiamo confondere quello che è la fisiologica maturazione dei centri che regolano il sonno e la veglia con quelli che poi possono essere dei problemi chiaramente di natura psicologica, no? Sì. Cioè, quindi la bambina sicuramente aveva acquisito acquisito già un buon sonno, però poi è subentrato un elemento. È arrivata la sorella. Cioè questo è lo stesso fenomeno, tanto così mi ricorda molto questo aspetto, ad esempio anche il fenomeno relativo all'enuresi notturna, no? Al controllo della minzione durante la notte nei bambini. Sì. Ci sono tantissimi che purtroppo hanno quella che noi chiamiamo enuresi primaria, cioè quindi che fanno la pipì a letto e che continuano a farla fino magari 7, 8, 10 anni, eccetera. Ci sono i bambini che invece normalmente acquisiscono il controllo della pipì notturna a 3 anni, ma poi arriva verso i 5 anni la sorellina, il fratellino, e ricominciano ad avere questo problema. Ecco, quindi qui chiaramente sono problemi esterni che vanno a influenzare un qualcosa che peraltro era già fisiologicamente maturato. Insomma. Abbiamo molti ascoltatori che intervengono, quindi voglio dare la parola a Fabio da Rimini. Vediamo se ha un problema o una soluzione. Fabio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, Fabio. Ci racconti? Io porto la mia esperienza di padre. Abbiamo un bambino che adesso ha 4 anni, per 3 anni non ha dormito, faceva addirittura quasi 8, 9, 10 risvegli notturni. Sì. Per cui noi abbiamo scelto forse la scorciatoia di tutti i massimi sistemi, ce lo siamo presi a letto con noi. Sì. Il bambino adesso dorme. Dorme lei? Regolarmente, non solo. Aveva un altro problema, che il bambino a letto si raffreddava ed era già, soffriva di raffreddori ricorrenti, tosse, eccetera. Da quando è con noi il bambino dorme, non prende il raffreddore. Ha questo problema. Allora, al di là di tutte le disquisizioni, massimi sistemi e via discorrendo, io credo che la soluzione più semplice è quella pratica, di cercare, e poi le previsioni si faranno, io le faccio mediamente da una settimana all'altra, non oltre, perché poi vedo che i piani vengono sempre, certo, vedrà modificati. Fabio, che quando avrà la fidanzata non vorrà più dormire nel lettone con mamma e papà. Scusate, questo è proprio è un consiglio più che da mamma, da nonna. Alberto, sì, credo che poi alla fine ogni famiglia deve seguire anche un po' ciò che è importante. Credo che il riposo di mamma e papà sia fondamentale, cioè sia un bene da preservare, e secondo me è molto interessante anche un po' analizzare come sono andate le cose nei primi 6 mesi di vita del bambino, dove effettivamente il bambino, mancando completamente di autoregolazione, piano piano la deve apprendere, e succedono delle cose su cui i genitori hanno molto potere. L'altro aspetto che ritengo fondamentale è che comunque il sonno è un comportamento, e come molti comportamenti dei nostri figli, in parte viene anche appreso, e l'apprendimento dipende dagli stimoli che mettiamo a loro a disposizione. Dopodiché, se una famiglia sono 3 anni che non dorme, chiaramente si deve anche mettere in salvo. Per fortuna poiché uno solo, perché se fossero 4, non ci sarebbero lettoni a sufficienza. Dobbiamo andare a sentire che cosa succede sui mercati, poi il meteo. 800 24 00 24, raccontateci che cosa fa il vostro bambino, dorme, non dorme, si risveglia. Parliamo di bambini piccoli, ma anche di quelli che da piccoli dormivano, poi quando hanno iniziato la scuola materna, quando è nato il fratellino, hanno iniziato a chiedere di essere invitati, ospitati nel lettone. A tra poco. Essere e benessere. Potrei avere un po' della vostra attenzione? Ascoltate attentamente. Smettete di fare quello che state facendo e andate subito di sopra a dormire. Avete sentito quello che ho detto? Smettetela di azzuffarvi. Immediatamente. L'avete visto? Tata Matilda, come ti metto a letto il ragazzino e anche come ti addormento il pupo. Abbiamo in linea con un grande esperto di sonno, il professor Luigi Ferini Strambi. Ci dà una mano anche naturalmente Alberto Pellai come psicoterapeuta, ma ci sono le nostre mamme blogger. Consigli pratici nell'addormentamento, ad esempio, Yolanda, canti, racconti la favola, lo metti nel lettino e scappi. Che cosa avete? Che cosa cosa si raccontano le mamme? Allora, noi, vabbè, quando erano molto piccoli, un po' di coccole e poi lo mettevo giù. Quando hanno cominciato a essere un po' più grandicelli, a capire le cose, abbiamo cominciato con le fiabe. E allora qualche volta la leggevamo noi e qualche volta invece utilizzavamo delle cassette, per esempio, di fiabe. E ultimamente abbiamo anche sviluppato un'applicazione per iPhone che si chiama iFiabe e che contiene 365 fiabe, una per ogni sera dell'anno, e praticamente la mamma e il papà si mettono nel letto del bimbo vicino lì al buio perché la luce arriva dal telefonino, e con un suono di sottofondo, una musichetta di sottofondo, ogni sera si legge una fiaba diversa ai bambini, che può essere un po' il rito, no? Il classico rito prima dell'addormentamento dei bambini. Ma quanto sono fortunate le mamme di oggi, anche la tecnologia le aiuta. Veronica? Io invece, senza nulla togliere a questi device tecnologici, sono di una scuola di pensiero completamente diversa. Cioè, io ho istituito questa regola che la camera è il luogo del sonno, e siccome conosco mamme mie amiche che sono schiave dell'ancora una fiaba, ancora una fiaba, ancora una fiaba. Tu sei un po' più tedesca, insomma. Sì, ma sono molto affettiva come madre, però ci tengo molto a queste cose. Allora cosa facciamo? Io desidero che il momento della fiaba di commiato, che c'è anche da noi, avvenga in salotto, dove si sta tutti insieme. Nel momento in cui si chiude la fiaba del giorno, abbiamo un vecchissimo libro di quando ero piccolo io, di Richard Scarry. Vabbè, insomma, degli anni 80 e dell'80 quel libro lì, per cui stiamo parlando di 30 anni fa, comunque, voglio dire, dove c'è la fiaba del giorno X, del giorno Y, leggiamo la fiaba del giorno, si chiude, bambini a lavare i denti, perché non e quando si va a letto, mamma stai seduta per terra, io sto seduta per terra, a luce completamente spenta, bacini, bacetti, 5 minuti sono addormentati. Insomma, è un po' come quando c'era Carosello. Professor Ferini Strambi, lei è... io mi sono accorta che lavoro con, ad esempio, Laura Vanoni, non ha mai visto Carosello. Noi siamo proprio di un'altra generazione. Alle 9 si andava a dormire. Questa, se vogliamo, è anche una delle regole di igiene del sonno per i bambini? Assolutamente sì. Beh, io purtroppo Carosello me lo ricordo. Certo, anch'io. Ecco, così abbiamo svelato la nostra età. No, ma mi ricordo benissimo Carosello, e sicuramente il fatto appunto di instaurare dei rituali, questo è un fatto fondamentale. Che poi la fiaba la si racconti all'interno della stanza da letto oppure fuori, come stava dicendo la sua ospite, in soggiorno e poi in sala e poi portare il bambino a letto, ecco, questo non importa. La cosa importante è appunto però stabilire col bambino dei precisi aspetti di rituali che si ripetono costantemente, e poi, ecco, la cosa però fondamentale è questa, cioè non dobbiamo andare avanti con i rituali per mezz'ora, un'ora, insomma, ecco. Quindi facciamola un po' corta, dice il rituale, esatto, deve essere, perché appunto mi veniva da ridere quando prima appunto si diceva 365 storie inserite in quel pacchetto. Ecco, ci sarebbero alcuni bambini che 365 storie le farebbero fuori magari in una settimana, proprio perché ancora, ecco. Quindi sicuramente la cosa importante è questa: il rituale deve essere di breve durata, perché sennò diventa una roba veramente non soltanto stancante per il bambino, ma anche per il genitore, perché a un certo punto finisce per innervosirsi, perché ecco, questo è l'aspetto fondamentale. Molte volte quello che va ad ostacolare poi l'addormentamento è il fatto di innervosirsi, perché ci sono i genitori appunto tanto cari, tanto bravi, che adorano il loro bambino, però quando il bambino comincia a tirarla per le lunghe, poi è chiaro che un po' di nervosismo viene fuori, no? E i bambini in questo sono una cosa fantastica, nel senso che percepiscono subito quando si sta alterando il carattere del genitore, no? E quindi cerchiamo proprio appunto di limitare questi rituali proprio per non cadere nel versante opposto. Io posso dire una cosa, prima è saltato fuori sentendo le varie mamme, no? Deve. Allora, molte volte è venuto fuori proprio questo aspetto della questione, molto, molto spesso è una questione di attesa, no? Cioè, diverse mamme hanno detto, ecco, dopo un po' però finalmente, no? Ecco, quindi questa è una raccomandazione che faccio sempre anch'io: se abbiamo un bambino che non dorme, non dobbiamo farci condizionare da questo aspetto e dire, ecco, domani, tra una settimana, tra un mese sarà così, proprio perché il sonno del bambino è qualcosa che è in evoluzione continua. Quindi magari il bambino fino a questa sera ci ha fatto disperare, ma magari tra una settimana, tra un mese comincerà a cambiare qualcosa, proprio perché cambia e vengono a maturare i centri che regolano il sonno. Quindi molte volte bisogna stare tranquilli e pensare che semplicemente dobbiamo attendere magari qualche settimana, 2-3 mesi, per vedere completamente cambiata la situazione. Insomma, i bambini crescono. Tra l'altro, professore, proprio le nostre nonne dicevano: fai la nanna che diventi grande, no? Qualcosa di vero c'è, perché l'ormone della crescita si attiva proprio durante il sonno, è vero? Assolutamente, questo è assolutamente vero. Proprio nella prima parte del sonno, quando c'è la parte, diciamo, più profonda del sonno, quel sonno ad onde lente, quel sonno che sembra quasi un coma, no? Ecco, in quel sonno lì viene liberato, durante questo sonno viene liberato il GH, l'ormone della crescita, che è un ormone importantissimo appunto per la crescita del bambino. Però volevo ricordare anche questo, cara Nicoletta, anche noi adulti abbiamo bisogno del GH, non solo i bambini, quindi non è che il GH è un ormone importante solo per i bambini, è importante anche per l'adulto, perché entra nella sintesi proteica, quindi è una cosa che... Quindi non dimentichiamoci che è importante che anche le mamme e le nonne dormano, non solo il bambino, perché anche loro hanno bisogno, certo, del GH. Mentre i papà che stiano lì a ninnare il bambino, come mi scrive un'ascoltatrice: adesso tocca un po' anche a mio marito, dopo 7 mesi di notti bianche adesso passo la palla a lui. Alberto, Raffaella ci chiama da Monza, buongiorno. Buongiorno. Come andiamo a casa sua? Non tanto bene. Alberto. La mia bambina adesso ha 8 mesi e da quando ha 5 mesi, di notte ha cominciato a svegliarsi ogni 2 ore, puntualmente, come un orologio puntualmente svizzero. È un classico. Adesso dov'è? Nel lettone? No, adesso è dalla nonna, altrimenti non potrei assolutamente stare qui al telefono. Sante nonne. Alberto, che cosa, un consiglio flash, perché poi abbiamo anche Alessandro che ci chiama da Roma. E flash in realtà su questa situazione, che praticamente è cambiata dopo i 5 mesi. Di solito quando cambia così intensamente dopo i 5-6, io personalmente farei così: manderei in prima linea un po' il papà in questo caso, esattamente come l'SMS che ci è arrivato, cioè solleverei un po' la mamma dalla fatica, e proprio perché la bambina sembrava già aver trovato una sua autoregolazione entro i 5 mesi, improvvisamente un po' l'ha persa, innescherei il dispositivo paterno come un papà che tiene, che culla e che rassicura. Vediamo un po' quello che succede. Alessandro ci chiama da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Io pongo un problema che più ho sollevato, cioè il bambino, la bambina. Sì, Alessandro, mi sa che dobbiamo richiamarla. Dalla regia la richiamano perché la voce non si sente bene. Andiamo a Simone da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Io vi chiamo perché ho un bimbo di 5 mesi e mezzo e lui praticamente già da piccolo ha avuto le coliche prestissimo e quindi si è abituato a stare attaccato al seno della mamma per addormentarsi. Adesso ha 5 mesi e mezzo e fa ogni tanto delle notti stupende dove non si sveglia mai, e invece delle notti dove si sveglia anche 5-6 volte per notte. Adesso lui non è mai stato nel lettone con noi, con fatica stiamo cercando di levargli questa cosa del seno della mamma, però volevo avere qualche consiglio per capire anche perché delle volte si sveglia tantissime volte e delle volte invece non si sveglia mai. Grazie Simone. Io avevo la mia prima figlia, non dormiva quasi mai, e quando dormiva io ero praticamente sveglia, perché dico: come mai non mi sveglia? Per cui era un disastro, ma poi ce l'ho fatta. Alberto? Allora, diciamo che è interessante questo aspetto, che il figlio alcune notti dorma tutto difilato e altre notti invece abbia un sonno molto interrotto. Per cui come genitore la domanda che mi farei prima di tutto è: cos'è successo nella giornata che precede la notte dove tutto va tranquillamente, e cos'è successo invece nella giornata che precede la notte in cui tutto è molto più faticoso? Perché lì ci può essere qualche chiave che ci aiuta a capire come far addormentare in modo tranquillo e buono il nostro bambino, e quali sono in qualche modo un po' i predecessori. Poi il seno chiaramente è stato utilizzato nella fase delle colichette gassose per aiutare il bambino a superare una fase che fisiologicamente era lì e dava molto fastidio al bambino. Direi che il seno durante la notte può continuare a nutrire se il risveglio è legato al fatto che deve mangiare, non può essere proprio un ciuccio sempre, perché secondo me genera poi una dipendenza ma so che questa affermazione sarà probabilmente anche molto contestata. Direi che fa molto bene a un bambino entrare nell'addormentamento non solo con quello stimolo costantemente ripetuto, cioè piange, lo attacco, si addormenta, appena si risveglia lo attacco al seno di nuovo, ma variare anche un po' lo stimolo e imparare altre modalità per entrare nel sonno significa averle nella testa dei genitori, cioè delle volte sarà necessario attaccarlo, delle altre volte potrei provare ad addormentarlo con una musica dolce di sottofondo, altre volte posso anche provare a fargli tollerare il fatto che piange per un po' e poi magari si riaddormenta. 800 24 00 24, chiamateci, raccontateci le vostre esperienze, dateci i vostri consigli. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade. Essere e benessere. Abbiamo in linea con noi Viviana che ci chiama da Latina. Buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo aggiungere i problemi di noi genitori. Ho un figlio di 14 anni e uno di 20. E il problema del sonno è proprio quello che ci ritroviamo la sera, ovviamente con i nostri problemi vari, genitori che si incontrano, ma questi si mettono davanti alla televisione, Facebook, computer e queste PlayStation, che praticamente tolgono la concentrazione ad andare a dormire, quindi li vedi molto tesi con questi occhi. E la gestione di noi genitori non è facile nel dare la regola di smetterle, uno quindi con calma le dice dai basta 5 minuti, ma basta, non c'è verso, si saltano su come delle bestioline, quindi è difficilissimo, nervosi. Adesso ho deciso questa mattina di togliergli praticamente il dischetto e farlo sparire, perché vedere un attimo come ha fatto una magia. Professor Ferini Strambi, qua siamo con gli adolescenti che fanno veramente un'indigestione con i videogiochi e insomma non vanno mai a letto, hanno questa eccitazione, lo sguardo anche cambia un po'. Che cosa consiglia lei? Ma ecco, sicuramente poi queste cose qui sono deleterie, perché a parte il fatto che se si sta davanti a uno schermo computer c'è il problema della luce che va a inibire il rilascio di melatonina e quindi è un ostacolo ulteriore all'addormentamento, ma oltre a questo c'è anche il fatto che poi il soggetto rimane super eccitato, quindi quando purtroppo noi dobbiamo addormentarci deve avvenire quel miracolo per cui si spengono i centri della veglia e si accendono quelli del sonno. Se uno rimane iper eccitato, i centri della veglia non si spengono così facilmente, quindi, ma secondo me lì bisogna essere un po' rigorosi, cioè quello che ha fatto l'ascoltatrice di Latina secondo me è una cosa che a un certo punto va fatta, perché altrimenti rischiamo, sparisce il dischetto. Esatto, sparisce il dischetto e si chiudono gli occhietti. Alberto, tu sei d'accordo? Sono molto d'accordo, le ricerche parlano proprio di sindrome del gufo che interessa sempre più adolescenti connessi alle tecnologie. Un consiglio per tutte le regole ad ogni età: quando un figlio è dentro una cosa che noi vogliamo limitare, limitarla in quel momento lì, quando lui è immerso, diventa una guerra senza scampo. Se lei vuole avere aspettative chiare rispetto alle 10 il computer deve essere spento, lo deve decidere alle 7 di sera e non alle 10.02, perché altrimenti lì scatenate la battaglia. Giochiamo d'anticipo, ma in linea con noi abbiamo anche il dottor Luigi Terracciano, è responsabile della struttura semplice dell'asma pediatrico all'ospedale Macedonio Melloni. Dottor Terracciano, bentornato. Buongiorno, grazie a lei. Dottore, noi il sonno dei nostri bambini, dei piccoli o più grandicelli, può essere disturbato da tante cose, abbiamo visto, dall'arrivo di un fratellino, da una scorretta igiene del sonno, ma a volte anche dall'ambiente in cui dormono. Come dobbiamo aiutare i nostri bambini a riposare in un ambiente che in qualche modo crei le condizioni ottimali per un buon sonno? Beh, intanto l'assenza del rumore è importante. Le città sono molto rumorose. Sì. E avere un livello di silenzio, se così possiamo dire, nelle stanze dedicate al sonno, questo è importante. A volte è difficile farlo, ma qualche accorgimento si può trovare. Intervenire sulle strutture della casa piuttosto che sugli infissi, garantire, cioè, ecco il discorso che si faceva prima sui centri della veglia e i centri del sonno, garantire un po' di distacco dal rumore di fondo, che è computer, che è TV, ma a volte anche banalmente rumore, aiuta. Sicuramente una qualità dell'aria in casa decente, non stiamo qui a parlare del fatto che non si debba fumare in casa, ma anche la presenza di umidità, di muffe, può avere un effetto irritante, può favorire delle forme lievi anche di cefalea, di irritazione nasale, e tutti questi sono fattori, piccole spine irritative che possono disturbare alla lunga, cronicamente, un po' l'addormentamento. Io volevo però, se mi permette, visto che di allergie principalmente mi occupo, parlare un po' di quelli che sono i tre nemici allergici del sonno, ma in pochi secondi, senza spaventarsi. che sono senza prurito, spaventare, mi piace, no, vada. Il prurito nei bambini che hanno l'eczema, che è tipicamente notturno come fase di peggioramento, sì. O la tosse nei bambini che hanno l'asma, e lo stesso l'ostruzione nasale, che non è quella delle apnee del sonno, per l'amor di Dio, ma l'ostruzione nasale della rinite allergica, che quando è forte dà fastidio e rende difficile l'addormentamento. Tutto questo per dire solo una cosa: sono tre obiettivi fondamentali della terapia, per cui il consiglio per i genitori è: se i vostri bambini per questi aspetti hanno un sonno disturbato, bisogna ridefinire la terapia della condizione, che non è evidentemente sufficientemente forte, sufficientemente efficace nel garantire. Quindi che ripetiamoli, sono, dottor Terracciano, prurito, la dermatite atopica, la tosse notturna, la tosse notturna e il naso chiuso, l'ostruzione nasale nella rinite. Se si manca uno di questi target, la terapia è da rivedere. Questo è un must per il medico, ma è un consiglio anche per i genitori. Grazie, dottor Terracciano. E molti dei nostri bambini saranno andati a dormire tardi per vedere Sanremo. Ha fatto anche tardi il nostro dottor Aquilar, che per tutta la durata del Festival di Sanremo ci ha suggerito una lettura un po' psicologica delle canzoni. Dottor Aquilar, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Lei è contento che abbia vinto Vecchioni? Se lo aspettava? Assolutamente sì. No, onestamente non me l'aspettavo, perché è stato il Sanremo della negoziazione intelligente. Oh. Un po' come la vostra trasmissione Essere Benessere. Oh. Tra cultura, impegno e gioia di vivere. E da questo punto di vista è stato sicuramente un passo avanti rispetto ad altre edizioni. Che cosa ha di speciale? Che, secondo lei, che cosa, perché ha conquistato comunque i voti e è arrivata prima la canzone di Vecchioni? Io ci speravo, perché io lo adoro, ma comunque, a parte questo? Perché ha cercato di sintonizzare insieme il momento socioculturale che viviamo in Italia con un sistema musicale semplice e coinvolgente, e dando la prevalenza all'amore individuale, che però non dimentica le grosse questioni sociali. La dimensione sociale delle emozioni è stata la base del suo successo. Hai visto, hai capito, Alberto, questo Vecchioni, grande. Speriamo di averlo qui presto, inviteremo anche il dottor Aquilar. Grazie al dottor Aquilar per essere stato con noi. Professor Ferini Strambi, grazie a lei. È grazie, sempre un piacere averla in onda. Altrettanto piacere mio, grazie. Volevo era venuto in mente una roba velocissima. Dai. Perché abbiamo parlato prima col Terracciano dei problemi russamento. Ricordiamo una cosa fondamentale: i bambini che russano e che fanno le apnee di giorno hanno un comportamento completamente diverso rispetto a quello degli adulti che russano e che fanno le apnee. L'adulto si abbiocca, si addormenta, sembra rimbambito, e invece il bambino è iperattivo, ipercinetico. Ecco, non dimentichiamoci mai questo aspetto importante, perché spesso non si capisce perché sto bambino non si ferma mai, è sempre indomabile di giorno. Ecco, molte volte dietro a questa particolare iperecitazione c'è un problema di russamento e di apnee durante la notte nel bambino. Prof, lei è geniale, grazie per questo suggerimento, che sono sicura sarà utile a molti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, anche alle nostre mamme blogger, che saluta da Alberto Pellai. Io vi aspetto domani come sempre, grazie per essere stati in nostra compagnia. Essere e benessere.